Le modifiche che sono state approvate ieri dal Parlamento in via definitiva entreranno appunto in vigore a partire da giugno insieme al pacchetto che va a modificare in maniera molto molto profonda e drastica le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato di protezione sussidiaria in favore dei richiedenti asilo. Queste modifiche non vanno che ad accentuare delle procedure accelerate che vanno a limitare fortemente i diritti dei cittadini stranieri. Effettivamente queste modifiche sono estremamente paurose ed impressionanti e nessuno di noi avrebbe potuto pensare che si sarebbe arrivati ad una situazione di questo genere. Infatti, a partire da giugno, probabilmente anche l'Italia applicherà questa possibilità, che è quella di dichiarare una domanda inammissibile, quindi una domanda di asilo che non può essere presentata, non può essere valutata, perché il cittadino straniero avrebbe potuto fare la domanda di asilo in un altro paese. Ora, prima quest'altro paese doveva essere un paese in cui il cittadino straniero era transitato, cioè io sono transitato in un paese sicuro, dichiarato sicuro, lì avrei dovuto fare la domanda di asilo e non arrivare in Europa e farle in Europa. Questo era un meccanismo che veniva ad esempio applicato con la Turchia per i cittadini siriani che arrivavano in Grecia e si pretendeva che tornassero in Turchia a fare la domanda di asilo. Ora, incredibilmente, il legame che ci deve essere con questo paese non è più neanche il transito, ma può essere semplicemente il fatto che l'Unione Europea abbia sottoscritto degli accordi con un qualsiasi paese terzo. Quindi un cittadino nigerino che arriva in Italia e fa la domanda di asilo potrebbe essere rispedito in Colombia, ad esempio, se la Colombia ha fatto un accordo con l'Unione Europea. In Certo. questo contesto è evidente che se da un lato noi sappiamo che è molto difficile rimpatriare le persone nei loro paesi di origine, può non essere così difficile rimpatriarli in paesi terzi che si prenderebbero quote molto piccole di cittadini stranieri che non influirebbero per niente nella loro gestione della popolazione interna, ma che arriverebbero a destabilizzare completamente il sistema democratico dell'Unione Europea. Quindi queste modifiche sono assolutamente allarmanti, ci parlano non solo di un modo diverso di gestione della migrazione, ma proprio di uno scombussolamento dei valori fondanti della nostra società. Lei ha citato l'Italia e proprio, come dire, anche le manovre europee guardano un po' all'Italia perché in particolare sembrerebbe che con queste modifiche venga un po' legittimata la scelta del governo di Giorgia Meloni di aprire queste strutture in Albania, da un lato. Dall'altro, per quanto riguarda i paesi sicuri, ricordo che quando ci fu un decreto analogo italiano, giustamente si osservava che non può essere la politica a decidere quali sono i paesi sicuri e quali no. Allora, consideriamo ovviamente che l'esperimento Albania è un esperimento superato, nel senso che l'Italia, nel momento in cui ha aperto un centro in Albania, ci ha anche imposto la propria giurisdizione, cioè ha detto quello è come se fosse Italia. Quindi il paradosso era fortissimo perché delle persone venivano portate fuori dal territorio che però giuridicamente era territorio italiano. In questi casi, invece, l'esternalizzazione della gestione di questi richiedenti asilo è completamente demandata ad un altro Stato. L'Unione Europea finirebbe con la propria giurisdizione, con il proprio potere, con il proprio mandato, proprio nel momento in cui riesce a trasferire queste persone in un altro paese di origine. Quindi, da questo punto di vista, il modello Albania è superato, ma certo ci sono dei richiami. Rispetto alla lista dei paesi di origine sicura, ovviamente non può essere solo la politica a indicarle, ma avere dei paesi di origine sicuri che appunto riguardano anche una ulteriore modifica sempre introdotta ieri, sempre approvata ieri dal Parlamento, la lista di questi paesi di origine sicuri si allunga e ovviamente è un segnale che la Commissione europea vuole dare perché nel momento in cui un cittadino straniero proviene da quei paesi di origine viene sottoposto ad una procedura accelerata, particolarmente veloce, proprio per evitare che il cittadino straniero possa superare quella presunzione di sicurezza. Prima diceva che queste misure si inseriscono in una riforma più ampia. Qualcuno in passato ha lanciato un allarme sul fatto che viene fortemente compromesso il diritto d'asilo in Europa. È così? È questo lo scenario? Assolutamente, il diritto d'asilo in Europa è fortemente compromesso nella misura in cui vengono limitate sistematicamente delle libertà fondamentali per il solo fatto di essere richiedente asilo, per il solo fatto di essere un cittadino straniero che arriva in Europa. Così, ad esempio, immaginate che nel momento in cui un cittadino straniero arriva tramite le frontiere esterne, viene rintracciato sul territorio, può essere posto in una condizione di limitazione della libertà personale per il solo fatto di essere un cittadino straniero che viene rintracciato senza permesso di soggiorno o viene in Italia per chiedere asilo. Evidentemente questo crea una fortissima frizione anche con i valori costituzionali, perché la limitazione della libertà personale deve essere sempre sottoposta a regole, a controllo di un giudice. In questo caso invece per 7 giorni o per 3 giorni, per il solo fatto che sia un cittadino straniero che è entrato sul nostro territorio, questo può essere posto in una condizione di limitazione della libertà personale. È uno stravolgimento che non parla solo degli stranieri, evidentemente.